all'interno della storia. Sì, ma io non riesco a capire proprio la traccia, però. Sì, ma non riesco a capirla. Ok. Ma hai messo altri accordi nella traccia? Sì, no, no, questo l'ho capito, è che sì, ma io comunque non sento la mia chitarra, è un casino. Cioè, sento solo un rumore di sottofondo. Ok, no, proprio un attimo a mettere le cuffie più basse, perché sennò non la sento, capito? Thank you. Maestro, perché non sì, perché non riesco a suonarci, non lo so, boh, ci riprovo, dai. Ci riprovo. Thank you. Thank you.